Hello, hello. You are listening to Radio Picnic, live from Brussels. Tonight we are going to stream Football Chants, a reenacted analysis. Following the presentation of football supporters, vocal techniques and know-how, a small choir will learn and perform a selected number of football chants, together with Davide Tidoni. The chants come from the Ultras group Brescia 1911. Ciao, parliamo in italiano, così facciamo prima. A tutti gli ascoltatori dispersi per il mondo, vi spieghiamo un po' brevemente quello che sta succedendo. Praticamente si tratta di un reenactment di una serie di cori da stadio, fondamentalmente così, è un'analisi, cioè facciamo un'analisi di come il coro e di come i canti vengono utilizzati all'interno dei gruppi ultras di tifo organizzato, e lo facciamo non scrivendo un testo, ma lo facciamo performando. Diciamo che performiamo una sorta di analisi, un'analisi di come i canti vengono utilizzati, di come sono sempre legati a quello che succede sul campo. Cioè i canti allo stadio non sono mai così, non sono mai definiti a priori, ma vengono sempre prodotti in relazione a un qualcosa che esiste nel mentre. E appunto, per dare un po' anche a voi ascoltatori l'idea di questo mentre, abbiamo deciso di estrarre le situazioni a cui i canti sono associati. C'è una persona che estrarrà dei biglietti, e questi biglietti sono associati appunto a dei canti che andremo a cantare con un coro. Vabbè, iniziamo allora. Prima di iniziare volevo solo dare due istruzioni al coro, ma non si fanno le prove, perché è così, cioè le canzoni si imparano nel mentre le si canta, e ognuno riaggiusta. Le canzoni si imparano facendole, e non c'è persona che sbaglia. È consentito tutto, fondamentalmente. L'unica cosa è metterci il cuore e essere convinti quando si canta. Insomma, il ritmo, puoi andare fuori il ritmo, puoi dire parole sbagliate, ma l'importante è che ci credi, ci canti e sei con noi e siamo tutti assieme. Abbiamo un tamburo, un coro, un tecnico e estrattore di biglietti, che ora sta per entrare in gioco. Prima della partita, all'ingresso dello stadio, appena uscito dal pullman, ti presenti cantando. Esatto, ti presenti cantando. Quindi, prima della partita, siamo appena arrivati allo stadio, che siamo in trasferta, siamo tutti carichi perché stiamo scendendo dal nostro pullman, e c'è la possibilità di incontrare qualcuno che abbiamo sempre voluto incontrare. Usciamo dal pullman e ci presentiamo cantando questa canzone che fa così. Io ve la dico, voi me la memorizzate istantaneamente e poi la cantiamo. Perché, perché ci domandano se noi siamo bresciani? Lo dovrebbero capire dalle mani. Perché, perché se ci conti lo capisci pure te? Perché, perché ci domandano se noi siamo bresciani, lo dovrebbero capire dalle mani. Perché, perché se ci incontri lo capisci pure te? Perché, perché ci domandano se noi siamo bresciani, lo dovrebbero capire dalle mani. Perché, perché se ci incontri lo capisci pure te? Perché, perché ci domandano se noi siamo bresciani, lo dovrebbero capire dalle mani. Perché, perché se ci incontri lo capisci pure te. Bravi! Bello, bello. Poi facciamo che magari non sentiamo niente che viene dall'altra curva, capito? E non si vede proprio nessuno degli altri. E allora c'è il 15.2 che fa: dove sono gli ultra? Dove sono gli ultra? Dove sono gli ultra? Dove sono gli ultra? e dall'altra parte all'improvviso siamo qua, se volete caricare siamo qua, e siamo nella merda, perché a questo punto dovremmo rispondere. Però visto e considerato che questo non era previsto, l'estrattore sceglierà un altro biglietto. Inizio partita. 16.1, la partita sta iniziando, il gruppo vuole mandare un messaggio alla squadra. Esatto, noi vogliamo mandare un messaggio alla squadra. E praticamente così. Facciamo ugnari, dai compatti, tutti insieme, figa. Oh, noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! E questo può essere seguito da... Io lo canto, poi dopo... Quando entreremo nella curva nord, come una bomba il tifo esploderà. Il Brescia è qui, il Brescia è là, il Brescia è forte, vincerà. Ale ale! Partita caratterizzata da una forte rivalità, non vuoi tirarti indietro. 14.2, durante la partita tieni alta la tensione cantando. Esattamente, e facciamo così. Se veniamo di lì, se veniamo di lì, vi facciamo un culo così. Scusate. L'arbitro ha fischiato per l'ennesima volta a sfavore della squadra durante un'azione che secondo te era regolare. Come si chiama l'arbitro? Cornuto! No, Ignari, come si chiama? Venduto. Il cognome dell'arbitro. Come si chiama? Collina. Collina. Daniel, tutti insieme! Collina, tu sei un figlio di puttana! Collina, tu sei un figlio di puttana! Collina, tu sei un figlio di puttana! Collina, tu sei un figlio di puttana! Undici, la squadra avversaria sta battendo il rigore! Gnari non devono segnare, fischiare! E il rigore viene sbagliato! A quel punto qual era? Il rigore viene sbagliato, riprende la canzone precedente. Okay. Collina, tu sei un figlio di puttana! Collina, tu sei un figlio di puttana! Collina, tu sei un figlio di puttana! Collina, tu sei un figlio di puttana! La squadra gioca male e non si impegna, non ci mette il cuore. Qua possiamo scegliere diverse cose. Possiamo cominciare con questa. Siete una squadra di merda, ci avete rotto i coglioni, veniamo coi bastoni, veniamo coi bastoni, ok? Dai, vai, basta Gnar, dobbiamo fargliela! Siete una squadra di merda, ci avete rotto i coglioni, veniamo coi bastoni! Poi c'era, possiamo anche rincarare la dose, perché non è che soltanto la squadra gioca male e non si impegna, il biglietto è costato anche tanto, e quindi facciamo questo coro qua: il biglietto costa caro e la partita fa cagare, il biglietto costa caro e la partita fa cagare, il biglietto costa caro e la partita fa cagare, il biglietto costa caro, la partita bello. E poi non ci fermiamo, capito? Cioè continuiamo proprio a infamarli e tipo facciamo un tiro in porta, un tiro in porta, Dio porco, un tiro in porta, un tiro in porta, Dio porco, un tiro in porta, un tiro in porta, Dio porco, un tiro in porta, e sullo stesso ritmo a lavorare, andate a del portiere avversario. No, che cazzo, andate più dai muri, staccatevi dai muri, venite più vicino, tutti più vicini, ma con chi giochiamo? Con chi giochiamo? Inter. Inter. Contro l'Inter. Ok, perché quando c'è il rinvio si fa sempre quando il portiere colpisce la palla per fare il rinvio si dice il nome della squadra avversaria e poi merda. Interista è interista è interista è interista e basta. Ok, okay? Allora, tu fai tipo il portiere che lancia il calcio. Interista è bastardo! Un tuo amico non è allo stadio assieme a te perché è diffidato. Esatto, allora cantiamo... Facciamo questo qua che fa... Diffidato lei, non mollare perché c'è una curva che canta per te... Però la facciamo così, io la intono, diffidatole. Oh, dai, cioè è importante questo. Diffidatole. Diffidatole. Però che coro diffidato. Cioè, più allora, la voce, la tecnica vocale è questa, dovete urlare. Okay. Poi non importa se non avete più le corde vocali, ma deve una, cioè non è una cosa che è studiata. Poi col tempo uno si trova la sua voce. Perché la modula, capito, in relazione al tempo che impiega andare allo stadio. Ma non c'è tipo un'impostazione vocale. Non è che esiste il diaframma o no. Tu lo scopri, ma senza saperlo. E così anche la respirazione. Quindi adesso che siamo tutti un po' neofiti qua, non dovete preoccuparvi del diaframma o delle corde vocali. Dovete solo urlare. Più forte possibile. Diffidatore! Diffidatore! Diffidatore! Quasi, quasi, quasi, quasi. Voi, io uno, voi uno, ok? Diffidatore! Diffidatore! Non mollare perché imparata? Una mezz'ora di sconto, eh? Di picchiarti non mi stanco. Tu vedrai, non mi stanco, è la cosa più bella che c'è. State cantando in tanti, il gruppo è caldo. Prova un canto non stop, uno di quelli che possono durare 10 minuti di fila se prendono il giro giusto. Vai, questo qua è bello. Facciamo. Non molleremo mai, avanti Brescia, non molleremo mai, avanti Brescia, non molleremo mai, avanti Brescia, lotta insieme a noi. Ok, ma è bello perché fa. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bravi, grandi, grandi! Non molleremo mai, avanti Brescia, lotta insieme a noi. La la, molleremo mai, avanti Brescia, non molleremo mai. Avanti Brescia, non molleremo mai. Avanti Brescia, lotta insieme a noi. E ancora una volta così. Non molleremo mai. Avanti Brescia, non molleremo mai. Avanti Brescia, non molleremo mai. Avanti Brescia, lotta insieme a noi. E sento il tamburo. La la la la la la. Parlata e poi facciamo okay? Vai, dai, ripeti, fa così. Non molleremo mai, avanti Brescia, non molleremo mai, avanti Brescia, non molleremo mai, avanti Brescia, lotta insieme a noi. Le squadre stanno andando negli spogliatoi, bisogna ricordargli di mantenere gli impegni. 18. Allora adesso praticamente noi cantiamo questo coro qua. Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Mio errore. C'è la cantata e poi c'è il tamburo. Quindi facciamo. Adesso io lo intono. Noi vogliamo questa vittoria e con le mani fate ta ta ta ta ta ta ta ta ta. E poi noi vogliamo questa, ok, dai, noi vogliamo questa vittoria, noi vogliamo questa vittoria, noi vogliamo questa vittoria, noi vogliamo questa vittoria. Dai, un altro che si caricano. Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Secondo tempo. Le squadre sono rientrate in campo, si rinizia a cantare. Non leggo il numero, non la faccio adesso, me voglia io. Cantiamo, cantiamo, cantiamo perché sei il nostro grande Brescia. Cantiamo, cantiamo, cantiamo perché sei il nostro grande Brescia. Cantiamo, cantiamo, cantiamo perché sei il nostro grande Brescia. Cantiamo, cantiamo, cantiamo perché sei il nostro grande amore. In realtà questa non si fa quando si inizia, cioè perché è stretta, serve una canzone più lunga che dà il via di nuovo al gioco. E quindi cosa? Molto bella. E quindi niente, ritorniamo al punto del secondo tempo e possiamo cantare, facciamo una opera anche a me. Si potrebbe fare per esempio quella che fa: questo è il nostro inno che la domenica allo stadio, ecco le mani, tutti insieme canteremo, ecco le mani, e il Brescia eccolo qua con le mani dentro la voce. Siamo forti e vinceremo in ogni stadio, il Brescia seguiamo e non resta sempre forza Brescia, canteremo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la è arbore, ok? La la la la la la la la la la la la resterete solo voi con le vostre televisioni e solo allora potrete capire che il calcio è fatto di emozioni. Questo è il nostro inno che dai con le mani, la domenica allo stadio, tutti insieme canteremo, e il Brescia eccolo qua, noi siamo forti e vinceremo, in ogni stadio il Brescia seguiamo, e dove sempre forza Brescia canteremo. Avversaria 6.2, fermati e dopo un attimo di disperazione riprendi a cantare un coro nuovo introdotto dalla voce del leader, che introduce dicendo: siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Siamo sempre con voi, siamo sempre con voi. Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. E poi fa forza Brescia, forza Brescia, forza Brescia, forza Brescia. Poi di nuovo siamo sempre. Il tuo gruppo da anni lotta contro il presidente della tua squadra. Il presidente ha scelto di non ridurre il costo del biglietto. Il presidente ha promosso la costruzione di un nuovo stadio centro commerciale. Il presidente ha denunciato alcuni ultras del tuo gruppo per non essersi piegati alle logiche filosocietarie che propone. I dedichi un bel coro. Allora questo qua facciamo così, facciamo, io dico Gino e poi voi fate Anquilet, Gino, Anquilet, Gino, Anquilet. Lo facciamo per 4 volte. Gino, Anquilet, Gino, Anquilet, Gino, Anquilet. No, 3 volte. E poi io faccio, e poi tutti insieme, Corioni, Corioni, vaffanculo, Corioni, Corioni, vaffanculo. Ok? Gino! Anquilet! Non ha sentito niente, Gnali, più alto. Gino! Anquilet! Gino! Anquilet! Gino! Anquilet! Corioni! Corioni! Vaffanculo! Corioni! Corioni! Vaffanculo! Corioni! Corioni! Vaffanculo! E poi tutti assieme, Gino Corioni, il gasta, sei il coglione a touch. Gino Corioni, il gasta, sei il coglione a touch. Non ti vogliamo più, non ti vogliamo più. Come presidente bianco blu. Gino Corioni, il gasta, sei il coglione a touch. Gino Corioni, il gasta, sei il coglione a touch. Non ti vogliamo più, non ti vogliamo più. La voce dei tifosi nemica non si è ancora sentita. Li provochi cantando. Non cantate mai, non cantate mai. Avete capito quello che ha detto? Sì. Ah, grandi. Non cantate mai, non cantate mai. Non cantate mai, non cantate mai. Non cantate mai, non cantate mai. Non cantate mai. Non cantate mai. Questo è difficile, eh? Dai, ognuno interpreta la melodia. Carolina, interpreta la melodia. Vicino al microfono. Dai, dai, dai. Oh, sto qua per partecipare, eh? Diciamo il tuo nome. Non sono... più. E allora io la faccio una volta. Poi uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. E facciamo la melodia. Io faccio... Non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai. No, uno, uno, uno di voi. Non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai, non cantate mai. Ma è bello sentire anche le voci del sole. La tua squadra ha appena segnato, e tu? E tu, boato di gioia, seguito da... È inutile chiedere ai ragazzi del gruppo di incitare la squadra quando questo è già stato fatto prima. I ragazzi non se la sentono, sono delusi dalla scarsità di cuore messa in campo dalla squadra. Il gruppo ha varie opzioni. 3.2. Meglio trovare un canto che rinvigorisce il gruppo, lo diverta e lo rianima. Questo bisogna muoversi. C'è questo coro che fa: mi ricordo una vecchia canzone che cantavano sempre gli ultra. Non ricordo le vere parole, ma faceva la la la la la la la la la la la la la la la la. E quando si fa la la la la la. Mi ricordo una vecchia canzone che cantavano sempre gli ultra. Non ricordo le vere parole, ma faceva la la la la la. Grazie, grazie di prestarvi a tutto questo. Lo stadio non canta con gli ultra. Tutto lo stadio sembra più interessato alla partita e alle azioni sul campo. Allora il gruppo gli si rivolge in questo modo. Tutto lo stadio. Tutto lo stadio. Tutto lo stadio. Tutto lo stadio. Tutto lo stadio. Tutto lo stadio, tutto lo stadio, tutto lo stadio. E poi facciamo, visto che non sta cantando nessuno, cioè noi facciamo questo perché nessuno sta cantando fuori che gli ultras. Gli ultras vogliono che tutto lo stadio canti. Allora diciamo tutto lo stadio, lo stadio. E poi li infamiamo anche perché non stanno cantando. Allora noi giocavamo contro? Inter. Allora facciamo... E chi non salta è un interista, e chi non canta è un interista. Oh oh oh oh oh, chi non canta è un interista. Oh oh oh oh. Subito dopo, ok? Allora facciamo tutto lo stadio va avanti e poi io quando faccio chi non canta è un interista, oh, oh, oh, e poi andiamo assieme, ok? Allora dai, dobbiamo tirarli su, questi non ci stanno per niente aiutando. Siamo gli unici coglioni che stanno cantando. Fate poco! Tutto lo stadio! Tutto lo stadio! Tutto lo stadio! Tutto lo stadio! Tutto lo stadio! Tutto lo stadio! E chi non canta è un interista! Oh! Anche se la tua squadra ha vinto, scegli di ricordare gli amici che non hanno potuto esserci perché diffidati. Ma come? Ah no, no, no, non fine della partita. Aspetta, aspetta, io avevo delle cose extra da aggiungere. Supplementari, supplementari. Torniamo indietro, torniamo indietro. 2 minuti supplementari. Questa qua è una cosa importante. Facciamo, dopo una... Facciamo questo. È un momento in cui serve un effetto rottura con i canti precedenti. Vuoi ottenere il volume massimo da tutte le voci. Ti serve un pezzo secco e conciso. Ok, il pezzo che ci interessa a noi fa Brescia, tu tu tu, Brescia, tu tu tu, Brescia, tu tu tu. Però lo anticipiamo con quest'altro coro che fa sulle mani, In realtà è funzionale a preparare quello che viene dopo. Quindi facciamo sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Brescia! Brescia! Brescia! Brescia! Brescia! Brescia! Brescia! Brescia! Brescia! Perché il Brescia siamo noi! Perché il Brescia siamo noi! Perché il Brescia siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Perché il Brescia siamo noi! se vogliamo ricominciare a fare un canto no, facciamo ale ale ale il bresciale, ale ale ale il bresciale, ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale. Partita! Anche se la tua squadra ha vinto, scegli di ricordare gli amici che non hanno potuto esserci perché diffidati. Quindi cantiamo: non ne possiamo più delle divise blu, no al calcio moderno, no alla Pay TV, non ne possiamo più. Fuori dallo stadio. Fuori dallo stadio, la polizia ti aspetta con atteggiamenti provocatori. Cerca di spingerti verso l'uscita o verso il pullman. E noi gli cantiamo: lo scemo col casco blu, lo scemo col casco blu, lo scemo, lo scemo, lo scemo, lo scemo, lo scemo col casco blu. E scemo non canta più. Lo scemo non canta più. Lo scemo, lo scemo, lo scemo, lo scemo, lo scemo. Avete ascoltato Cori da Stadio con il maestro Davide Tidoni, il coro composto da Selene, Marzia, Ishai, Dagmarà, David, Marco, Paolo, Caroline, alla tecnica Jonathan. Ringraziamo gli ascoltatori, ringraziamo i giocatori e i tifosi, e lanciamo il famosissimo jingle che voi non sentirete, ma che tutta la gente a Berlino sì. Goodbye.